sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Scudo fiscale, potrebbero essere recuperati 300 miliardi di euro. Oggi Berlusconi in Abruzzo consegna 400 case ai terremotati. Afghanistan, attentato contro un autobus a Kandahar, 12 le vittime. Nessuna misura di sicurezza per Gianni Guido, uno dei massacratori del Circeo. 300 miliardi di euro potrebbero essere dunque rimpatriati grazie allo scudo fiscale. Se ne è parlato poco fa nel corso di una conferenza stampa che è stata seguita per noi da Alessandra Schepisi. Sì, buongiorno, un tesoro nascosto di ben 300 miliardi di euro, come avete detto, a tanto ammontano i patrimoni degli italiani che potrebbero rientrare con lo scudo fiscale. E a due giorni proprio dal voto finale su questa misura, la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Entrate hanno appunto fornito il dato sull'evasione fiscale internazionale del nostro paese. Di questi 300 miliardi, 125 si troverebbero in Svizzera, 86 in Lussemburgo, oltre 2 miliardi a San Marino, mentre a livello mondiale i paradisi arriverebbero a 7 miliardi di dollari. L'era dei paradisi fiscali è ormai segnata, è la convinzione delle fiamme gialle secondo le quali lo scudo fiscale è l'ultima opportunità per mettersi in regola. I contribuenti che sono in difetto, ricorda la Guardia di Finanza, possono avvalersi dello scudo pagando il 5% del valore delle attività rimpatriate, e la prossima settimana arriverà la circolare definitiva dell'Agenzia delle Entrate con tutti i chiarimenti. Il convegno sui paradisi fiscali qui a Roma è ancora in corso, tra pochi istanti ci sarà l'intervento del ministro dell'economia Giulio Tremonti. E da Roma è tutto. Grazie ad Alessandra Schepisi. Naturalmente, se dovessimo intercettare la conferenza stampa di Tremonti, vi faremo sentire alcuni pezzi di questo discorso atteso sui paradisi fiscali. Il premier Silvio Berlusconi è oggi atteso invece in Abruzzo, dove consegnerà 400 case ai terremotati. Sentiamo Berlusconi. Stiamo riuscendo in questo miracolo di realizzare una città per 30.000 abitanti in meno di 5 mesi. Avevamo detto che avremmo consegnato le prime case con tecnologia antisismica entro la fine del mese, e oggi, 29 settembre, consegniamo i primi 400 appartamenti, dei più di 4.000 che consegneremo rispettando, direi così, alla lettera gli impegni presi con i cittadini. Questa, vorrei sottolineare, è la moralità nuova della politica che abbiamo introdotto noi per la prima volta nel nostro paese, quella cioè di mantenere gli impegni che si assumono con i cittadini. Ma cosa pensano gli amministratori locali? Il presidente della provincia dell'Aquila, pezzo pane al microfono di Paolo Piacenza. Oggi verranno consegnate le chiavi, tra virgolette, di 500 appartamenti tra l'insediamento di Bazzano e l'insediamento di Preturo. Sono una parte del complessivo progetto case realizzato dalla Protezione Civile per la popolazione sfollata. È un fatto molto importante, naturalmente, perché finalmente sono cifre significative. 500 appartamenti significa 1.700 persone circa. Complessivamente il progetto case sta rientrando nei tempi? Sì, ad oggi non ci sono tempi non rispettati, insomma io non starei lì a sottolineare ritardo di una settimana o di 10 giorni. L'importante è che l'impegno entro dicembre di consegnarle tutte sia mantenuto. Quanti sono ancora nelle tende e fino a quando resteranno nelle tende? Beh, nelle tende ci sono ancora circa 9.000 persone e lo smantellamento va a rilento. Ricorderanno tutti l'impegno di smantellare le tende entro settembre. In realtà ci sono motivi diversi per cui alla fine questo programma, che io avevo un po' bollato come eccessivamente ottimista, si sta rallentando. Innanzitutto perché le persone non hanno una casa dove andare, quindi il passaggio che gli viene proposto dalla tenda è quello in albergo e ci sono numerose persone che si rifiutano. L'altra problematica è legata purtroppo al fatto che ci sono ancora delle scosse, che naturalmente produce di nuovo il riacutizzarsi dei timori. A metà del mese scorso, quando c'era stata appunto la consegna dei primi simbolici alloggi a Onna, aveva segnalato il problema degli sfollati delle case catalogate B e C, insomma, sì, che ancora non hanno. Purtroppo rimane tutto intero, ancora non si riesce a risolvere se non parzialmente. Solo ieri sono state accordate dalla Protezione Civile 500 piccole case mobili, quelle su ruote, e ancora migliaia di persone sono sulla costa. 13, 5 minuti e 44 secondi, Radio 24. Rimaniamo nello scontro politico di questi giorni, il caso Rai Anno Zero. Si sono incontrati oggi il vice ministro delle comunicazioni Paolo Romani e il presidente della commissione di vigilanza Sergio Zavoli. Cosa si sono detti? Lo chiediamo al nostro Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno. Occhi puntati dunque sull'azienda di Viale Mazzini e sulle polemiche scaturite dalla prima trasmissione di Anno Zero. Questa mattina l'annunciato incontro tra il presidente della commissione di vigilanza Rai Zavoli e il vice ministro alle comunicazioni Romani, incontro sollecitato da Zavoli dopo l'apertura da parte del ministero di un'istruttoria sulla trasmissione di Michele Santoro. Romani ha ribadito che il governo ha piena facoltà di chiedere alla Rai cosa è successo sulla base del combinato disposto del contratto di servizio, del testo unico e del codice etico, coinvolgendo la relativa autorità garante. Nell'incontro dell'8 ottobre con il presidente e il direttore generale della RAI, ha spiegato ancora Romani, acquisiremo ai massimi livelli informazioni su Anno Zero ed eventuali altri programmi rispetto alla verifica che intendiamo fare sull'adeguato rispetto del contratto di servizio in materia di libertà, obiettività e rispetto del pluralismo. Tra meno di mezz'ora invece la stessa commissione di vigilanza guidata da Zavoli si riunirà per fissare il calendario dei lavori e per affrontare tra l'altro la questione informazione nella televisione pubblica. Si parlerà sicuramente anche dell'invito di alcuni organi di stampa a non pagare il canone Rai. E da Roma è tutto, linea allo studio. E proprio questa ultima cosa che diceva Vincenzo Miglietta è il tema del nostro sondaggio. La campagna di Libero e Il Giornale contro il canone Rai, perché finanzia una certa TV pubblica non gradita, è sposata dai nostri ascoltatori. Il 58% di loro nel sondaggio di oggi la definisce una campagna giusta. L'attacco frontale non piace a Nino Rizzo Nervo, consigliere di amministrazione Rai in quota centrosinistra. Secondo me è perfettamente legittimo che un giornale, più giornali si interrogano sul canone, sul fatto se l'Italia debba avere un servizio pubblico. È un po' meno legittimo, visto appunto che il canone è un'imposta, se questo dibattito finisce per essere quasi un'istigazione all'evasione fiscale. Per la verità anche il mondo politico fa fronte comune. Giusto discutere sulla qualità del servizio pubblico, ma la battaglia contro il canone non trova molte sponde. Tranne che in Davide Caparini, onorevole della Lega, un posto in commissione vigilanza Rai, che alla domanda classica, ma lei lo paga il canone Rai, risponde così. No. Non lo pago da sempre. Bianco o nero torna domattina alle 8.30 per votare radio24.it. Alessandro Milan, GR24, Il Sole 24 Ore. La pagina internazionale: non si placa la tensione in Medio Oriente provocata dai test missilistici dell'Iran. Grande apprensione sui media arabi per i test di missili balistici annunciati da Teheran. I principali quotidiani dedicano l'apertura a quello che viene definito l'impennata nell'escalation della tensione decisa dall'Iran a pochi giorni dalla sua trattativa sul nucleare con i grandi dell'Occidente prevista per giovedì prossimo a Ginevra. Tutto il Medio Oriente è alla portata dei missili di Teheran, titola la stampa saudita. Di taglio diverso il commento dei giornali antioccidentali. Il palestinese Al-Quds Arabi vede nella duplice sfida di Teheran, che nel giro di 2 settimane ha fatto test missilistici e annunciato un nuovo impianto nucleare, la consacrazione di una grande potenza militare nel Medio Oriente che tiene testa a Israele mentre gli eserciti arabi vanno in giro ancora con le carabine. Per il libanese Al-Safir, Teheran addirittura troverà giovamento presso tutti i musulmani del mondo per l'attacco dei coloni israeliani alla moschea di Al-Aqsa di Gerusalemme. Adi Fatahali, GR24, Il Sole 24 Ore. L'Afghanistan, un autobus con donne e bambini a bordo è saltato su una mina nei pressi della città di Kandahar, 12 i morti nell'attentato attribuito ai talebani. E ci colleghiamo in diretta con la nostra inviata in Afghanistan, Cristina Balottelli. Buon pomeriggio e vogliamo sapere un po' dove sei, cosa stai facendo e quali tipi di lavoro stanno realizzando i nostri soldati nella lotta contro i talebani. Sì, buongiorno, io ho sentito di questo attentato avvenuto a Kandahar, ma in questo momento mi trovo nella valle di Musai, a 35 km da Kabul. Anche questa è una delle zone più pericolose della periferia di Kabul. Qui gli insorti infatti trovano il supporto della popolazione locale e molte famiglie dei villaggi della valle sono le famiglie dei talebani che stanno in Pakistan a tirare le fila di questa insurrezione armata. Io mi trovo in questo momento nella SOB, nella base avanzata degli italiani, ci sono circa un centinaio di italiani. Le attività, mi chiedevi, che svolgono qui, innanzitutto io direi rivolgiamo questa domanda al vicecomandante di Talsor 20, tenente colonnello Renato Vaira, che è qui con me, ci spiega che tipo di cose fanno gli italiani qui e poi quali problemi stanno affrontando causati appunto dagli insorti. Tenente colonnello Vaira. Per quanto riguarda la valle di Musai, dobbiamo considerare che è la principale via d'accesso da sud alla città, quindi abbiamo grossi problemi con gli insurgent nella valle, specialmente al nostro arrivo abbiamo subito vari attacchi ai quali abbiamo risposto e abbiamo risolto la problematica. Poi siamo stati soggetti a vari IED che abbiamo trovato e disinnescato e comunque c'è un'attività continua insurgence che noi tamponiamo con la nostra sorveglianza 24 ore su 24 della valle, quindi adesso dopo 5 mesi possiamo dire che abbiamo un discreto controllo, se non quasi totale, della valle. Sì, per quanto invece riguarda il rapporto con la popolazione, in breve, cioè le attività che fate anche nei confronti dei villaggi, so che partecipate alle Shura, che sono delle sorte di consigli comunali. Sì, noi partecipiamo alla Shura, che è praticamente una riunione che viene svolta settimanalmente da tutti i capi villaggio e noi utilizziamo queste Shura per acquisire informazioni e per colloquiare con i capi villaggio per dare messaggi che riguardano la collaborazione nell'ambito della lotta agli insurgents e alla garanzia della sicurezza della valle stessa. Ed è tutto per ora dalla valle di Musai. Grazie a Cristina Balottelli in diretta dall'Afghanistan con i nostri soldati. Torna a parlare della nostra missione in Afghanistan il Presidente della Repubblica Napolitano, in diretta Elisabetta Fiorito. Sì, dopo il monito a Berlusconi, il capo dello Stato Giorgio Napolitano interviene oggi ancora una volta sulla missione italiana in Afghanistan. L'occasione offerta dalla visita del capo di Stato del Pakistan, Zardari, al Quirinale. L'Italia sta facendo la sua parte in Afghanistan, spiega il Presidente della Repubblica, ed è interessata all'approfondimento con tutti i paesi alleati, con le forze coinvolte, con il Pakistan, sui modi di portare avanti la missione e ottenere i migliori risultati. Noi, ribadisce Napolitano, teniamo ben fermo il nostro impegno militare in Afghanistan in tutte le sue diverse componenti, militare, civile, di aiuto alla ricostruzione e di institution building, che si sono sempre combinate con equilibrio. L'Italia sta dando un notevole apporto ed è intenzionata ad intensificare i suoi sforzi. Zardari dal canto suo risponde che il Pakistan vuole essere parte della soluzione ai problemi che affliggono questa area del mondo. E per il momento qui da Roma è tutto, voi studio. E anche il ministro degli esteri Franco Frattini, che nel pomeriggio terrà un'audizione alla Camera, è intervenuto sulle nuove strategie della presenza italiana. Noi noi dobbiamo ridefinire alcuni degli obiettivi di questa azione, che evidentemente non può essere un'azione a tempo indeterminato. Noi dobbiamo prepararci a lasciare agli afghani le chiavi del loro destino, le chiavi del loro paese, dobbiamo formare la loro polizia, dobbiamo costruire il paese in senso fisico, i ponti, le strade, le scuole. Questo evidentemente richiede una ricostruzione civile ancora più importante dell'azione di sicurezza militare. 13, 19 minuti e 48 secondi. Nella prima parte abbiamo dato molta importanza e molto spazio alle questioni legate allo scudo fiscale, che potrebbero essere recuperati 300 miliardi di euro, la visita di Berlusconi in Abruzzo che consegnerà 400 case ai terremotati, l'Afghanistan con l'attentato a Kandahar, e avete sentito anche la nostra inviata con i soldati italiani e le polemiche politiche anche sulla missione in Afghanistan. Ora la seconda parte del nostro giornale radio si apre con la cronaca. Il caso di Garlasco è atteso per domani mattina al deposito della perizia sulle scarpe che Alberto Stasi, imputato per l'omicidio della fidanzata Chiara Poggi, indossava la mattina del delitto. La perizia è una delle quattro commissionate dal GUP Stefano Vitelli, davanti al quale si sta celebrando il processo con il rito abbreviato. La perizia, che è stata resa nota ieri, ha smontato in parte le accuse formulate dalla procura di Vigevano a carico di Stasi in due anni di indagine. E ora ci si interroga sulle indagini, equilibrio del processo, prove scientifiche. È la dimostrazione del fatto che la prova si forma in aula, sostiene Renato Borzone, vicepresidente dei penalisti italiani, al microfono di Maria Luisa Pezzali. Il caso di Garlasco dimostra quello che a volte un po' troppo spesso si dimentica anche da parte della pubblica opinione e dei mezzi di informazione. I processi sono strumenti dialettici nei quali si confrontano due parti che hanno opinioni spesso opposte, che producono prove con risultanze spesso quasi sempre contrastanti. Quindi è del tutto normale che in un processo possa ribaltarsi l'impostazione dell'accusa. Ultimamente questa visione delle cose si è un po' persa, il processo sembra chiudersi alla fase istruttoria. Sì, questo fenomeno è particolarmente preoccupante, sia perché fa seguito a una tendenza degli organi dell'accusa di lavorare più per l'immagine rispetto alle indagini compiute, ma questo fa da contraltare anche spesso il comportamento dell'informazione che asseconda questa impostazione, e quindi ecco che già nel corso delle indagini ci si divide tra colpevolisti e innocentisti, e in televisione vediamo appunto i famosi modellini, le impostazioni, arrivando a conclusioni e ingenerando spesso grande confusione nell'opinione pubblica. Nessuna misura di sicurezza per Gianni Guido, uno dei tre autori con Angelo Izzo e Andrea Chira del massacro del Circeo del 30 settembre del 1975. Tornato in libertà il 25 agosto scorso dopo aver scontato la pena per l'omicidio di Rosaria Lopez e quello tentato di Donatella Colasanti. Accadeva in Italia 65 anni fa, 29 settembre 1944. Le truppe naziste in ritirata cerchiavano una vasta area intorno a Mazzabotto, in provincia di Bologna. Dopo alcuni giorni di rastrellamento vennero uccise 1830 persone, donne, vecchi, bambini. I fascicoli con i colpevoli di questo e di altri massacri di civili vennero occultati per anni nel cosiddetto armadio della vergogna, ritrovato poi nel 94 nel palazzo della magistratura militare di Roma. Paolo Piacenza ha intervistato Marco De Paolis, il PM del processo per la strage di Mazzabotto, sulle nuove inchieste relative ai fascicoli dell'armadio della vergogna. Il prossimo impegno giudiziario è fra pochi giorni, perché il 5 di ottobre, proprio tra l'altro in uno dei giorni del della strage di Marzabotto, inizia a Verona il processo per le stragi di Monchio, Susano e Stia e Valluccio, l'Appennino Tosco-Emiliano, crimini commessi dalla divisione del Manghering per un totale complessivo di oltre 360 vittime. Per quanto riguarda il famoso armadio della vergogna, che cosa rimane ancora da affrontare magari da parte di altre procure militari? Dunque, io ho una conoscenza diretta dei fascicoli che dalla Spezia abbiamo inviato a Roma, quindi ecco, in particolare quelli della Toscana. Ci dovrebbe essere, ecco, quello per la strage del Padura di Fucecchio, che potrebbe approdare a un dibattimento penale. E poi qui a Verona, sempre proveniente dalla Spezia, ci sono altre due indagini che potrebbero arrivare a compimento, che sono una per la strage di Fragheto, di Casteldecci e Verghereto, sono fatti commessi appunto da un reparto di polizia militare tedesca specializzato in queste purtroppo tristi operazioni, e poi quello per la strage di Borgo Ticino. In chiusura il calcio, torna questa sera la Champions League con le partite della seconda giornata, apre alle 18.30 l'Inter in trasferta in Russia, alle 20.45 Fiorentina-Liverpool. Ha letto le dichiarazioni di Lo Monaco? Di? Lo Monaco. Che Monaco? Di Tibet? Io conosco un Monaco del Tibet. L'anno scorso era stata la polemica con Pietro Lo Monaco, amministratore delegato del Catania, prima della gara col Panathinaikos ad Atene. Sarà l'area delle trasferte di Champions, ma anche quest'anno José Mourinho ci ricasca la vigilia della prima trasferta di Coppa, nella fredda Kazan contro lo scorbutico Rubin. Stavolta quello che lo Special One dice di non conoscere è Zdenek Zeman, il padre del calcio iperoffensivo, tutti gol e poca difesa. Il peccato di Zeman? Definire Mourinho un allenatore mediocre. Peccato di lesa maestà nell'ottica del portoghese, e allora il tecnico boemo viene scaraventato ai margini della storia del football. Zeman, che ha detto che lei è un grande comunicatore, ma ha perso tempo per questo. Lo conosco. Sarà intanto occhio ai russi, però. Meno chiacchiere e più calcio ci si aspetta da Firenze, dove la Fiorentina ospita il Liverpool di Gerrard e Torres. Gilardino squalificato non ci sarà, ma Prandelli punta forte sul pubblico del Franchi. Io penso che giocheremo in 12 e quindi... Debutta alla Scala il 4 ottobre fino al 14. È un'opera buffa del repertorio di Donizetti, soprattutto il debutto alla Scala di Milano di un attore straordinario, un attore comico in veste totalmente nuova. Dimenticate Epifanio o Cettola Qualunque. Antonio Albanese è diventato regista d'opera, ma non per finta, sul serio, alla Scala di Milano, con le convenienze e inconvenienze teatrali di Gaetano Donizetti, insieme agli allievi cantanti dell'Accademia Teatro alla Scala, diretti da Marco Guidarini. Quello che ho cercato di fare è rispettare prima di tutto questo teatro, l'autore di quest'opera, e onorare il palcoscenico con rispetto e onestà. Noi con Marco già un anno fa a casa mia abbiamo cominciato a lavorare, poi ancora, e ancora prima, un mese e mezzo fa, ancora a casa mia, mai a casa sua però, a casa mia. E dire che Albanese spesso all'opera si annoiava e usciva prima. Ah, ma io non capisco perché molti non lo fanno. Sono lì così. E un giorno ho sentito uno dire alla moglie: lascia sta, te mazzi, proprio così. Poi ci sono gli estremi in questo mondo. Arriva magari il capricciosissimo compositore che ricrea le grotte di Frassassi. E perdi gli amici se vai a teatro con altri. Ora però Albanese si è innamorato di quel mondo e spera di continuare il rapporto con la Scala. Questa esperienza mi ha eccitato veramente in una maniera quasi sorprendente, e non sono stanco. Marta Cagnola, GR24, Il Sole 24 Ore. Vi saluta qui Daniele Biacchesi, in regia Filippo Aureggi. Le prossime notizie alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Gianfranco Fabi.